10, K. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, K. Hola, hola. Attenzione, canale 10, K. Hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? K. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto, K. Ora, attenzione 10, copiate Antonio, KK. Chi è avanti? Ora, ora, ora, la Coca-Cola. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno che in ascolto, K. Proseguite, chiedevo chiudere il microfono. da questa parte Alberto da Sassari. Vedo che tutti si sono spostati di canale, speravo un pochettino di avere un po' di controlli e di sentire un pochettino dove stavo arrivando, però intanto inizio a ringraziare te per avermi mandato avanti e ti ridò il mic. Eccomi qua, allora qui arrivi Osilo, se non ho capito male, c'è molto QRM, molto QRM sotto, e ho anche qualcuno che sblattera da canali a fianco che mi sopprime un po' tutti i segnali. Comunque arrivi con un Santiago di 7, una radio bella pulita, e considera che non sono in una buona posizione per te, sono coperto, quindi sono nella parte di Sassari bassa, quella che guarda verso il mare, e quindi ti ho alle spalle coperto dalla collina della città, ecco, quindi tu sei in alto ma non siamo proprio reciprocamente in una buona posizione. Dimmi un pochino come arrivo io lì da te e anche il tuo nome per favore, che non l'ho memorizzato. Ciao Francesco, forse ci siamo anche sentiti un po' di tempo fa, provavo sempre la radio, mi avevi dato un controllo. Ma tu sei in una posizione che guarda bene verso Sassari? Diciamo che mi aspettavo meglio da Osilo per me, non parlo della tua stazione, parlo di me, e sto pensando che probabilmente non siamo in una buona posizione reciproca. Non so esattamente dove ti trovi, ecco, se giusto, non voglio sapere le coordinate esatte, ma voglio capire se guardi verso Sassari o sei spostato. E io arrivo, pronto! Ok, dai, si spiega un pochino perché non siamo... Scusa, ho mollato il mic, perché non siamo proprio al telefono, ecco. Ok, dai, grazie del controllo. Pensavo, in realtà, farò un tentativo lì sul 40, dove si sono spostati gli altri. Cioè, da che zona modulavano quelli che si sono spostati in banda laterale sul 40? Cambio. Mi senti a me, pronto? Sì, un attimo. Ok, ho capito, quindi Ottieri e l'altro non ho sentito, qualcuno ha modulato sopra per sapere se lo sentivo, sento forte e chiaro, quindi non ti do il cambio, mando avanti chi ha bussato sopra. Buonasera a tutti, oddio, sento solo a te, Francesco lo sento bassissimo, di solito oggi non lo sentivo, non so, magari ha problemi, non so se mi ascolta lui, da questa parte Luca Monte Rosello, avanti, fate entrare, con nominativo. Buonasera Luca, Alberto da questa parte, io e te sicuramente siamo abbastanza vicini. Francesco, senti, hai ascoltato Luca qui da Sassari? Cambio per Francesco. Positivo, ti ascolto un bel molto basso Francesco, molto basso. Alberto, dove sei tu, che zona ti trovi? Avanti. Io Viale Umberto, dai, zona Viale Umberto, siamo vicini di sicuro, io ti sento molto bene, in realtà un pochino ti sento anche dagli altri canali, ma è un problema probabilmente di selettività mia, e che siamo sicuramente non lontani, ecco, spero di non disturbarti anche io dagli altri canali, non so, dimmi se ti slattero. Poco ti sento, purtroppo sono come i soldi, i colpi sono come i soldi, chi ce li ha se li tiene, no? No, non ti preoccupare, non mi dai fastidio, guarda, andando male, attenuo, segnale, ma non... Mi sa che questo segnale così altro non l'ho mai visto, sei l'unico che lo fa arrivare, io lo smittero un po' zecco, un po' avaro, un po' tanto. Mi sa che sei l'unico che lo fa arrivare quel... cioè sei 9 più 20, dai, non lo fa arrivare nessuno a quel livello lì, avanti. Ho capito, io ho messo su un po' di watt, niente di speciale, e li tolgo adesso, giusto perché parlavo con Osilo, ma ora vado così liscio, adesso sicuramente scenderò, e dimmi Francesco, io adesso esco liscio con i watt di questo apparato, che saranno tra 5 e 8 di picco, e dimmi come mi ascolti adesso, se mi ascolti naturalmente. Ecco. Sì, buonasera Roberto da questa parte, sono appena entrato, ho sentito adesso Franco da Osilo, poi c'è qualche un altro. Ciao Roma, io, Alberto qua, è molto vicino a me, molto. Vabbè, io Alberto sono qua nelle casette in Canada, qua al monte, e ti ho di fronte ho anche il cappuccino, avanti Alberto per Roberto. Sì, in linea d'aria sicuramente saremo veramente di fronte, magari proprio non abbiamo niente in mezzo rispetto alla mia posizione, anzi di sicuro non c'è niente in mezzo, siamo a vista. Sì, Roberto, buonasera. Quindi ad Osilo ci arrivo anche con i watt giusti, allora è inutile tenere acceso. Francesco, io ho un Lincoln che sto usando con la Lincoln quello nuovo, però e non il Lincoln vecchio, il Lincoln 2, insomma, questi un po' fatti adesso con la tecnologia SMD, che è ancora è sempre una radio valida. Ho preferito prendere questo che un Lincoln usato, perché l'ho avuto in passato, ma ormai sull'usato si pigliano grosse fregature, e allora ho rinunciato a riavere il Lincoln originale e ho preso questa versione che non mi sono pentito, dai. E quindi ora esce a 5 watt col potenziometro a metà e mi piace. Se mi dici che non cambia molto, già è un motivo buono per spegnere il lineare. Va bene, io adesso mando avanti Roberto e poi tra un pochino provo a spostarmi sul 40, che mi rimane la curiosità di provare in banda laterale cosa si riesce a fare, visto che sto un po' facendo prove di posizionamento antenne e di cavi. Quindi Roberto, vieni avanti, mando avanti Roberto e poi vi saluto. Break, registrato il break. Buonasera Alberto, per la prima, qua Roberto da questa parte, ti ascolto perfettamente. Segnale tuo 9 più 20 radio super 5, idem Francesco 9 più 5 e radio quasi 5, dai, 5 piena, hanno trovato qualche, c'è qualcosina sotto, avanti il break e poi faremo girare per Luca gli altri. Capa, salutoni l'amico e salutoni a tutti, Antonio da questa parte, capa. Sì, allora, va bene, comunque Alberto è molto vicino a me, molto molto, sicuramente anche Antonio gli arriva forte, sicuramente. Vediamo un po', vabbè, intanto Antonio adesso, non so come lo ascolti, avanti. Oh, vi ascolto tutti bene a fondo scala, tutti a fondo scala, con radio pulita. Antonio, buonasera. Devo dire, non faccio molta differenza tra te e gli altri due segnali, perché mandate tutti a fondo scala. Naturalmente questo Lincoln ha il suo mixer digitale a tacche, quindi non si riesce a differenziare molto. Con uno strumento a lancetta forse vedrei dei controlli più precisi. Comunque, diciamo, tutti arrivati a bomba qua nella mia postazione, siamo sicuramente in linea d'area, non c'è distanza. Io vi saluto tutti che faccio questo tentativo di ascolto sul 40, rimando avanti Francesco da Osilo, grazie per i controlli e per la chiacchierata, e un buonasera circolare a tutti, mi sposto, magari dopo vi rincontro da qualche parte. Francesco, se mi hai ascoltato, vieni avanti. Ciao Francesco, ben sentito, anch'io tra poco chiudo, sono entrato un attimino acceso e vi ho sentito. Vai Luca. Io oggi lo sento basso, molto basso, sono Antonio, ma non riesco a tirarlo fuori. Avanti Antonio. Pure io lo sento basso, lo sento, però alla fine riesco a capire un po'. Dai, perché non è che sia molto favorevole, cioè già sono favorevole, ma è lui basso. Capa, tu Francesco mi ascolti? Ok, approfitto del silenzio per prendere il microfono, ripeto i saluti, ancora per me è QRT che mi posto, anzi non QRT, mi posto di canale, a più tardi. Gappa, dai, ci sentiamo. Ciao Alberto, salutoni, dai, già siamo qua, non so fino a che ora, comunque siamo qua, dai, va bene, avanti Roberto. Roberto? Roberto qua arriva, più di 9.30 arriva, voglia che va bene. Vabbè che non è che sia tanto lontano, Stavo ascoltando un messaggio, no? Chi sei Anto? Cappa che ci sono. Andava, è molto piacere, molto vicino a me, arriva più forte, mi arriva di tutti lui, arriva quasi 9.20 a questo baracchino, non ci arriva nessuno. Cappa, allora ce l'hai vicino tu, perché non lo so che zona è, perché io, vabbè, io in linea d'aria ce l'ho vicino sicuramente, gli sparo, cioè gli sto arrivando, cioè non c'è lo smitter, se no gli sarei arrivato più del DB, se è quella zona di Vero Umberto, io lì sono favorevole, cioè l'ho già fatta la prova e vado forte pure. Sì, arriva uno dei più forti di tutti, è lui, e è molto vicino a me, è lì in via Umberto, mi ha detto, no? Io sono qua, alla fine arriverà anche bene anche a te. Andava, Roberto, ci sei ancora? chiuso? Chiama, sta tirando un vento. Un attimo, tu. E Orizzola, esci a vedere. Mi ha come stanno a preparare a mangiare. Eh sì, eh. Aspetta, magari chi? La cosa più bella che ho sentito da... Eh sì, eh. E lui, bianco per me, dai, che vuole preparare a mangiare. Roberto, ci sei? Ehi, capo, dai, adesso scendo giù. E prepara a mangiare. Ehi, ehi, allora va bene, tu vedi che mi sta chattando mia cugina che la figlia gli si è rotto il telefono, che gli serve per la scuola. Mi sta chiedendo quanto mi prendo per cambiare il display. Ok, aspetta, vedi, si sarà pronta, se no, guardo, la cugina. E io sono qua io, Anto, dai. Se vuole mattina devo alzare presto, devo andare a farmi gli analisi, vorrei che siamo dei primi. Se si intende i piedi, sa. Oia, già si intende un buon, tutto per capite di questa cosa. Oi, oi, oi. Ma non sei a Latino, ma non sei a Santana di Ibiza oggi? No, sono la mamma. No, no, sento qua che domani mattina devo alzare presto, capito? Vedo, Ibiza, Kizu. Kappa, kappa. Oi, oi, oi. Ecco gioco, gappa gappa, ed uno in banda laterale. Sì, lo so, mi sta slatterando un po'. Gappa, no, i doghi, no, ho girato così, un altro apparecchio, l'ho sentito. Sì, e mi è messo l'attacco 747, vedi? Come te rimane? Che da una bestia a me, ho misurato i batte, mamma mia! A pompa, a schirreggia, cappa cappa, e farò io, so va, a vedere che cosa.